continua la diretta di Radio Onda Rossa alle 21.05 qui sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Prove tecniche di trasmissione dunque fino alle 22.30 circa. Una radio che è un'email, ondarossa@ondarossa.info. Questa trasmissione è un profilo Facebook, una pagina Facebook che è prove tecniche di trasmissione / disorder, un telefono storico 06 4917 50. Prima di iniziare ricordo ancora una volta questa campagna di crowdfunding che mira a raggiungere 1000 ascoltatori per 30 euro in questa sorta di radio abbonamento. 30 euro che si possono dare entrando nel banner specifico e scegliendo la modalità che più si preferisce. Ricordo pure l'evento che ci sarà a sostegno di Radio Onda Rossa il 17 maggio, venerdì prossimo, in quel dell'Officine Zero con Rota De Fero e il Giardino Violetto in concerto, con DJ set con il sottoscritto, in Noctibus Panis e DJ Mitte Geisen, ossia Giardino Violetto stesso. E più tardi, intorno alle 22.30, faremo due chiacchiere con lo stesso Scarf al telefono per presentare questa iniziativa. Un saluto a Lucia Cagliazza in Arte Lupsi, progetto sperimentale in quel di Udine. Maia dalla Sardegna, il medico della peste qui da Roma, Like a Wake sempre qui da Roma. Ci trasferiamo ancora in Sardegna con Nicola Locci come Stigmate Hexagonal, ottimo musicista anche lui. Un saluto alla Sicilia di Antonella. Francesco della Black Ash, etichetta di Livorno, salutiamo. Noi invece iniziamo con Fulvio Biondo e i suoi Solar Lodge. Fulvio Biondo e Enrico Angarano hanno ritirato fuori questo progetto che era, diciamo, in latenza da lontano 1992. Hanno stampato un interessantissimo lavoro, direi più ambient e più rarefatto rispetto al passato, un lavoro che si chiama Icebound Hearts. Ci andiamo ad ascoltare la seconda parte della Caduta del Tempo, la prima chiaramente ce la siamo ascoltata mercoledì scorso. Yeah. siamo gustati dunque la caduta del tempo nella sua seconda parte. Indubbiamente un approccio quasi evanescente, anche se a un certo punto ho creduto di intravedere anche un minimo di approccio invece più granitico da parte di Solar Lodge. Ma fondamentalmente è un disco abbastanza rarefatto, come già in parte nella tradizione di Solar Lodge. Ricordo ancora una volta il Fulvio Biondo alle macchine in generale e le chitarre di Enrico Angarano. Icebound Hearts, nuovo lavoro dunque in questo 2019. Due ottimi musicisti, sia Angarano sia Fulvio Biondo, che speriamo un giorno di rivedere, chissà, anche in una dimensione live. Dunque, da queste atmosfere giustamente anche descritte come crepuscolari, passiamo a un qualcosa che in parte può ricordare anche Solar Lodge. Sto parlando della musica creata e cantata da Alberto Nemo, una delle voci più belle e particolari degli ultimi tempi, questo musicista di Venezia, che ha dei toni particolarissimi, con dei rimandi addirittura a una voce femminile di Lisa Gerrard, a quella di Anthony The Johnsons, anche a John Balance The Coil, e soprattutto dei tappeti musicali che vanno dal lettono al breakbeat, e anche qui a cose abbastanza in sospensione. L'ultimo lavoro si chiama Tidur. Ci ascoltiamo oggi altre due tracce, ossia Santu e Velse. Fascinose atmosfere, compresa la voce ovviamente, il tutto creato da Alberto Nemo, da questo Tidur che esce per la Siberiana Xenza, etichetta siberiana addirittura. Forse un album leggermente meno ermetico rispetto al passato, ma pregno di umori anche questi crepuscolari, etnici, rarefatti. Un artista di spessore, un artista proveniente da Venezia e che abbiamo sempre il piacere di mandare in onda. Sì. questo punto anche una piccola rivelazione, sembrerebbe, chiaramente poi se vuole Lupsi ce lo può confermare, in atto una collaborazione tra lei e Alberto Nemo, e devo dire questi due artisti messi insieme secondo me potrebbero dare il meglio. Vedremo se a presto ci sarà quindi anche una, diciamo, un'uscita pubblica, vedremo. Stanno ancora provando. Lucia risponde subito. Comunque vediamo, l'intenzione c'è e quindi ci farà sapere ovviamente. Questa quarta traccia di questo Tidur era anche caratterizzata da un bellissimo pianoforte che mi ha anche ricordato tante atmosfere, per esempio di Current and Anti-Tree di David Tibbet, e quindi credo ci stia anche bene adesso Invocations of Almost, questo ultimo bellissimo lavoro per Current and Anti-Tree che esce per The Sphere, la nuova etichetta di Tibbet. Ci sono tracce di krautrock, di neofolk e appunto anche di passaggi di pianismo notturno. Come già gli affezionati sanno, un album che non ha titoli, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare la traccia numero 9, l'ultima del disco. son, electric the mother, electric the father, electric your life and electric your death, electric the light and electric the light, electric the moon, electric the sun, electric the mother, electric your life, the father. Così si concludeva questo Invocation of Almost di Current 93. Questa cantilena impazzita, come un Carillon impazzito, vero e proprio collage sonoro e ultra psichedelico nella personalissima concezione psichedelica di David Tibbett. Un sempreverde che non tramonta mai, e ogni cosa che tocca diventa oro, giusto per essere un po' retorici, ma tant'è soprattutto l'ammirazione che io ho verso questo artista inglese. Più di 30 anni di eccezionale carriera, collaborazioni notevolissime. Benvenuto anche a Jean-Claude Bertaud, lui sempre della Val d'Aosta. Noi invece ce ne andiamo in Africa e lo facciamo usando la compilation stampata dal buon Raffaele Pezzella, oggi non all'ascolto perché impegnato in faccende lavorative. Si chiama Anthology of Contemporary Music from Africa Continent, un album a cura della Nesplay Sounds Group Production, che riesce a fare il punto in maniera eccellente di una situazione africana ai più ignota, me compreso. Magari molti di questi artisti hanno bazzicato l'Europa, questo sì, ma in molti frangenti si sente anche l'ombra etnica di quel continente così grande e diverso. Ci ascoltiamo adesso Second Movement, Kalyan Mode di Victor Gama. suo modo tribale, devo dire, anche se sullo sfondo c'è anche un minimo di approccio jazz sperimentale per questa Second Movement Kalyan Mode di Victor Gama. Artisti chiaramente molto molto sotterranei che si possono cercare nei vari profili Bandcamp o SoundCloud, che dir si voglia. Intanto ringraziamo Lucia che associa sempre delle bellissime immagini alla musica. Andiamo avanti con un altro artista dalla medesima compilation, si chiama Niur e questa è Mediterranean. Atmosfere più frastagliate di Niur, sempre da questa compilation dedicata all'Africa, Un viaggio in Africa che concludiamo questa sera con questo artista dal nome Hamet. Questa è Imposé Le Savoir, la traccia che chiude proprio l'intera compilation. Si doit en baisser le Sahel et fonctionner. Ils se sont tués, ils ont dit qu'on est péri. L'école est devenue maintenant n'importe quoi. On continue toujours d'avancer. On cherche toujours les occasions. Il faut que, avant que Coco ne parte, la goutte d'eau dépasse de base. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2016 qui s'achève a été riche en événements spécifiques sur notre nation. Maintenant, m'apesantir sur les derniers événements survenus dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un problème de tes jours. Théologie générale des organisations. Il s'agit d'une expérience en Afrique. Comme toute entreprise humaine, toute expérience a fait pas parfaite. Ils savent quoi la chaîne, ils savent quoi la chaîne.

chiudeva veramente in maniera efficacissima questa compilation dedicata alla scena africana, ideata, assemblata da Raffaele Pezzella. Si concludeva con Imposer les Savoirs di Ahmet. Ci ha tenuto compagnia per molto tempo e ce la siamo gustata praticamente tutta. 21:55, questa è Radio Onda Rossa sulla frequenza degli 87.9 e in streaming www.ondarossa.info. Un saluto a Marco qui da Roma, ormai fedelissimo ascoltatore di questi spazi radiofonici. Torniamo in Italia, esattamente qui a Roma, con New Procession Order, questo progetto romano che ha dato a luce quattro lavori interessantissimi a cavallo tra psichedelia, trance, ambient, industrial, insomma un progetto e musicisti alquanto eclettici. Ultimo lavoro, Psychic Perceptions, che si chiude con Panic in Aldoki e Christ, You Bring the End.